prendendo spunto dal significato che l'espressione Amarcord ha nel dialetto romagnolo, ossia mi ricordo, non ci resta che ascoltarla. Thank you.